sui biglietti. Secondo me è un gusto, mi metti male da capo, vedi? Perché la gente che non può essere. Arriva la porta di Peppa. Adesso, la sento la due allora, perché qua è forte. Ah, smetti, dai, vai a guardare la TV, ma c'era un paio di coglioni qua, vai. No, vai io, avviati. Poi tornato il mio goccio l'alfa, sempre sta cosa di continuo, come sta a fare a dormire? vedi da chi ti gira. Poi come le fa con la mano dal, da sotto le coperte, mi vivo le mie di freddo, allora mi devo buttare tutto sotto, dentro, no? Coperto, proprio la gamba a piedi, allora stavo bene. Se ne levavo un pochettino la mano fuori, mi viene i bibiri di freddo. Ehi, ehi, perché fa così caldo, freddo, caldo, freddo. Ma sai Daniele, la tachipirina che ha preso? Una scatola più un antibiotico da 750, non gli ha fatto niente. Crepatola, l'ha crepato. No, io mi dici del pocket, la verità. Ma sta dove anche la voce. Beh, ma che cosa stai prendendo tu? Risalgo. Ma quelle bene fanno. Cazzo, ma mia madre è sempre comunque sta circolata, è sempre bene andata. Carletto, Stefano, veramente, sono bene per tutto, fanno bene per tutto, mal di denti, dolori, ma veramente sono. La fame te la passano. Risalgo, sono quelle verdurine che rimangono morbide. Ehi, però per la tosse ci vuole lo sciroppo, mi tu non lo sai. Sono dei giorni senza fumare. Non fumare che è peggio me. No, quello è anche peggio. Io ho fatto sabato, ero con Gianni, ci abbiamo fumato una testa. Ma la verità, non per essere sincero, no, divagano, però come me, no, non ce la fai mai, perché è impossibile. Tu quando mandi il fumo dentro, inizia a tossire e non ne la finisci più. Ma per forza, non c'è un'altra cosa che la sigaretta di greba, poi uno quando sta male, la sigaretta la deve eliminare proprio zero, riporto zero. No, io oggi non ne ho fumato niente, Franco me le ho comprate ieri, chiuso il pacchetto e chiuserà ieri e chiuse oggi, neanche una, la verità. Sulla tele, guarda, non dico niente, però se ce la faccio, guarda, per me sarebbe una cosa molto, molto bella, perché non per fumare, non me la fumo più nulla, va bene. Facciamo questi due, mi stavo fuori vicino, ma che si è fatto così, questi ho sentito l'odore del fumo, cazzo, mi faccio uscire, roba vendita, allontanatevi. No, quando uno sta male, io dico che Daniele non avrà più a toccare. Io posso proprio dire, voi Daniele fuma pesante, io fumo pesante, fumo sì, ma non pesante come lui. Daniele fuma un bel. Credimi su, è brutto, se ti prende. No, cazzo, trovate per la tua, mi attenti. Aspetta, è pronto il momento. Ma misuratela per te. No, cazzo, me la colgo dalla fronte, sta morendo. Quel termometro di Daniele è tutto consumato e sarà consumato. Non sapevo anche rivolgermi, per carità, uno schifo qua. uno schifo. C'era nel frigo, guarite. Guarda che ci vuole la tachipirina per la febbre, quelle pastiglie che stai prendendo tu non te la bastano, mi ci vuole la tachipirina supposta da 1000 oppure in pastiglia. Adesso vediamo domani. Ho tanto la febbre, ma la tosse che mi sta ammazzando. Prenditi lo sciroppo per la tosse, bella febbre ne hai, misuratatela. Aspetta, no, me l'ha promesso. Non manca, abbattendo la cimbia, un buon cubizzino. Allora, ecco, provo. No, lascialo. Non credo, perché c'è la fonte bollente, te non peraltro. Se me la fonte bollente, me l'avrebbe allora. Lascialo ancora, che sbobbo a conte sede. E questo non vuol dire, colpi d'aria. No, l'aria l'ha fatto un bel marcio, prima riesce a travagliare una prima. Oh, vabbè, io sono comunque giudendo, se ci rimotto una prima. Non è possibile, ma Daniele è distrutto, Daniele, boh. Io non l'ho visto perché non l'ho visto, però la mamma mi ha detto, se lo vedi non lo riconosci, non lo conosci più. Che te, vabbè, ma pure questo, cioè uno si può, non deve andare a morire per lavorare, ma stiamo scherzando. Luca, cosa vuoi che ti dica? Boh. Se ti vedi, ci sta rimettendo la pelle per le proposte di lavoro. Aspettano, se hanno pazienza, aspettano. Non è che c'è tutta quanta urgenza, lo so, i pacchi vogliono consegnarti, ma esitta, rimarrò. Se non bisogna andare via da cucina Siri. Daniele è troppo bravo, tutto qua. Hanno un dare, dico, tracco, va e giratemi le scatole, va, fatemelo un po'. Così è lui. No, te è negativo, 36 e mezzo. Lascialo, che cavallo ti mirai? E fatti la prima a cavallo, è cavallo ti mirai, e fai prima a cavallo. Cosa? Che una prima da cavallo, ma ti ha cavallo ti mirai. Bobo. Ah, è importante. No, un testa di... Ma, però non vuole parlare male. È una storia di Fibelli, Fibelli. Che gente, bro. Che gusto ci prende secondo te? È una portante. Non ti rimbiazzi, non è che io... Oggi lo darte giù. È martiretto portante, no? Cosa, Lu? Ma fatto, per carità. Iaia. Sì, vedi, posso giocare una cosa io, vai. Sono efficacissimi. Vabbè, comunque mi devo alzare sui pazienti, devo far testa. E per me era meglio ricoverarlo, vabbè. D'accordo, non si scherza, c'è un virus in giro. Io oggi, sono rientrato un bel presto, c'ho un dolore, una fitta al fianco qua sotto il fegato. Non so che cacchio sia, se è freddo, se nel mio piede di influenza, cosa mi gioco. Vabbè, dai. Rimango con Ricchi sul canale 10, ti ho chiamato, non mi hai risposto, pensavo di qua. Ciao a tutti e ci sentiamo. No, dai, vengo un attimo nel 10, dai, ma non ci ho parlato perché c'era Roberto e niente, stai parlando con Roberto, dai. Vabbè. Aspetta, lui. Perché io lo metto, lo tolgo. però mi sa che magari mi ascolta lui invece. Perché... è copiato allora? Oh, c'è, ogni tanto c'è la portanza, no, non lo sento. Sì, ascolto bene, ciao. Io. Negativo. Passi tu, che non ha più massa, A te no, perché è vicino. Però passi tu allora, comunque, qua. Se sono proprio a me, ci guardava. A me se poi va, la se ce la puoi... Perché va, non ti preoccupare, poi già fate come c'è stato. Adriano, mi è stato. C'erano le scosse, mi dato la testa. Se non lo fanno conto, lo mangio a panini di tutto di più. Sì, ma comunque ce ne accorgeremo quando saremo qui. Va bene, ma adesso così metti. Tu e la Leo, sai cos'è? Stava, non esci niente. Perché fai girare? E vai per pari. Sì, non lo sento noio, Adriano, c'è abbattimento anche all'aria del canale. Te la risciuro. Perché? Dov'è per Paolo? Antidotti, no, c'è una splatter dal 10. No, io no. Guarda, solo tu mi splatteri, la verità. C'è il segnale basso, se no, perché tu mi splatteri? Attivo, non ti sento. No, sono indietro, però non ti preoccupare il 10, altrimenti non parlo mio, allora. Niente, ma quello va a 50.000 euro. Ora, non mi può ascoltare. Allora, te do, c'è addirittura la segnale, io credo che era quel palomo tanto, perché anche lui c'è il segnale basso. Però c'è un attendino all'interno del... all'interno, non è all'esterno, un po' coperto come antenna. La guardia arriva a 9, la più di 9, la più 5, la guardia. Grazie. prezioso, dici. Adriano, no, gira testa, in questo momento che stavi parlando. No, mi sono spostata per parlare un attimino con Claudio, per dirgli una cosa, di un amico. No, stavamo dicendo. Stavo dicendo che l'aspetto era portante. Ah, che avevo detto, magari si è spostata. No, ah, con la portante ce l'avete, con la portante c'è. No, sì. Avanti, Luca. No, non ce l'ho più te. No, vabbè, stavo dicendo che tu l'ha passato prima lui, no? Poi non so, ma lui quello l'ha passato e non passava. Ma sono c'è più. Ma cioè, ma dico questo qua, siamo vicini, siamo attaccati, ci vuole pure importante. Ma che se faceva nel chiappe? Ehi, ho futtito di bene, non puoi divisare Maru. Se la fosse vi arrabbiate vi fa male, vi sentite male. Ah, sono tranquillissimo te. Grazie. Insomma, tranquillissimo. Ma tassai, mi vuole ammazzare. E mi dispiace, c'è Pierpaolo che è rimasto a coppia. Chi è questo Pierpaolo? Appena uno, vai Pierpaolo, per Teresa. Ehi, lo sono stato anche poco fa, forse non mi ha sentito. Buonasera, signora Teresa. Buonasera anche a me, signor Pierpaolo. Sì, no, non ti ho sentito. Ti ho sentito adesso in questo passaggio. Comunque mi arrivi bene, 9:20. Da dove stai modulando? Ehi, siamo vicini. Sempre da qua. Vicini, vicini, vicini. E dove? Alla veloce. Ah, già va bene, già va bene. Oh, Pierpa. Sì, dimmi. Ma sei mia zia, lei. Sua zia è. Allora. Pierpa, lui è mio zio. Ho capito. E lui è mio zio. Io sono la zia e lui è mio zio. Che cosa, boh? E chi è zio? Tere, mi sto chiudendo, dai, ciao, ci sentiamo, te l'ho salutato sul 10, ciao, ciao. Non ti ho sentito, mi sono spostata, vabbè, là, ciao, cra. Capito, hai Pierpa? Allora, lui è zio... E da me stessa dice, zio e zia, boh, anche questa cosa non la comprendo. È un miscuglio, è là, è zii, già siamo zii entrambi. Lui è mia zia, io sono... ma lui, tra me, lei è mia zia. Adesso ci sono disconnesso, bisogna andare a disco di domani. Allora, lei è mia zia, io sono lo zio. Io sono il cognato. Mia casina. Poi là, che cazzo. Ma il telefono qua stavo volendo a portarvi l'altro film, l'avete visto? No, ma vai la capellino, non usci da casa. E beh, la flebbe ce n'è. No, no, tanta scemo è, te l'ho detto. Vai, vai, vai, non usci, mio per freddo batte. E neanche domani io sarei uscita. No, sotto a me. No, vabbè, ma avete visto quel film che vi ho prestato? Eia, sì, avanti ieri notte, bellissimo. Bello, bello, bello. Ambe di paratori, come si ammazzavano, mamma mia. E l'altro, vabbè, l'altro non è così, ma... c'è questo tipo che picchia, guarda, allucinante, dura un'ora e mezzo circa. Ma vogliono lavorare, manco. Denny Ted Dog, Denny Ted Dog, è un tuo curichillo. Quando c'è un collare nel collo, quando ne levano quello, l'altra signora mia. E quello che ci ha dato era, c'era quello con la testa pelata, raffatta, K2 mi sembra di aver capito nella testa, e su quante era forte. Questo è quel tipo che taglia la droga dentro quella vasca. Nella vasca, dopo buttando tutta quella droga, adesso perché era veloce, ci sta per fare la carta farina. Ma praticamente è quello, non voleva che vendesse la droga, allora gli ha fatto fare una fine lì. Cazzo, ma cambia un fuce, hai visto i salti che fa? Guarda, bello quel film, ma a me piace un casino. Un canguro balia mentre saltava, poche era agile, a destra, a sinistra, e su come intera. E non si può sapere il titolo. Non lo so, Maria, ce l'hanno loro il nome. Io sono Denny Dog, allora Denny, aspetta, che l'ho messo. La stavo portando sabato e poi non... non è più grandissimo perché stavo ben male. Aspetta, c'ho Denny Ted Dog, sì. Ma c'è loro, non lo so, non mi ricordo il titolo. Infatti solo una parola chiave. Denny Ted Dog. Allora, Paolo, questo qua è questo tipo che picchia un bel. Praticamente questo signore non raccoglie dalla strada questo ragazzo, non l'ha abbandonato non lo vuole nessuno, tutti lo, come si dice, lo, cioè, si presume che così, perché lo racconta a lui questo tipo che lo prende, e c'è questo collare nel collo. Quando lo so collare inizia a picchiare, ma tu mi dici che la ricca adesso la manca, micidiale, bello, quello è un bello, però quello che c'è a te non fa più bello, non c'è più quello. Se non me lo racconta veramente. Sapete questo titolo com'è? Questo è Banlie Oe, così è lui. Ma non so, mi sa, non lo so il titolo, io non può, Alessandro, ci sei. Non me lo ricordo sinceramente. Sarei qua, se vedi anche l'altro già è bello, dura un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, dai. E qua c'è scritto Banlieog, questa è una G, Banlieog. Provarea, Banlieog. Adesso pensa, come parola chiave nella qualche risultato. Bello, Adria, questo è bello, quello che ci ha prestato Luca è bello. Adesso faccio fare altri. Quando ci dai l'altro ti restituiamo questo, Luca. No, perché lo devo prestare a Rita quello, gli avevo promesso che lo devo dare. Poi se le piace se lo sdoppierà lì. Cappa. Vabbè, comunque già. No, ma ha detto, se. Mi domani, se. No, domani dove cazzo vado domani? Lui. A gambarli, no? Quando stavo meglio magari qua mi compro i CD, i DVD da masterizzare per questo qua. Ma se me ne prendo un paio, tanto costano 40 centesimi l'uno, 50, me ne prendo 10 e via. Ma se mi danno loro ti piacciono? No, Lea. Mi dà uno franco, mamma mia, ma che dai. Le onore a me piacciono, Andrea. 160 che belli che sono, a me piacciono quelli di orrore, Franco non li guarda, ma io sì, prendamene qualcuno. No, io te li masterizzo, che belli, come faccio a pensare, sono negli artisti. Solo che non ho mai il tempo di guardarli, anche perché c'è stato qualcuno visto di notte e fa... No, ha registrato il break un attimino. No, a me non mi fanno paura, anche se li guardo di notte, che c'è tante gente che dice, se vedi quel film, mamma mia, ma da paura a me, io li guardo tranquillamente, boh, sarà, vabbè. Facciamo venire avanti il break con la buonasera. Allora, io sono Teresa, e tu chi sei? Ciao Antonio Bombolo, ti mando avanti Luca, vai Luca per Antonio Bombolo. Ciao a tu, ben sentito, salutoni. Davanti Adriano, hai ascoltato? Io ascolto anche la Mondetta, però sicuramente non mi ascolta, quindi io te ne stai a casseggiare chissà dove. Copiato Antu. Allora ho compensato, Antonio. È copiato. Adesso mi sto uscendo con un coso, una materia di moto. E mi usi. Buonasera. No, sono certi, io sono appassionato dell'orrore, se mi guardo un film dell'orrore ogni tanto non sono contento, cioè, c'è sangue, c'è budella da tutte le parti, però ce ne sono certi psicologici. Ma che dai! Non mi fanno paura quelli, io li guardo tranquillamente. No, io te ne ho detto, quello che c'ha Franco non riesco a guardarlo, poi a me lo vedi, mi attino vita, ma mi attino i film che hai visto, quello che c'hai tu mica, quello è la fine del mondo, ma che questo qua che c'ho dei Nintendo Dog, che è bello lo stesso. Me ne vedo un altro, se me lo guardo, se mi piace me lo masterizza, se no... Ne ha comunque, sono quelli più belli, poi fai te te, decidi qualcuno tu e te lo faccio masterizzare, non c'è problema. A me questi così disparatori a chiamata non mi piace, infatti mi l'ho guardato di notte giusto per accontentare a lui, che dai ce lo guardiamo, perché io guardo la TV, niente, io da smettilo, però no, a me tutte queste cose, spari, ammazzano così, no, vado più per i film di paura, quelli sì, però per questi no. Non essere sincero, non ti guardi, questi sono film di mafia, guarda, quelli te li guardo tranquillamente, ma questi film così, manco, ma sogno, non mi attirano, ecco, non mi attirano. Boh, Andrea, fammene qualcuno. Sì, ma quelli che ho io sono bruttini, proprio, sono budellati da le parti. E beh. È a poca gente che piaccio, a me io godo quando c'ho tempo la notte, metto un video e mi metto anche a mangiare pure con la lettura. Ecco, carità, mamma mia, mamma mia. Fammi quelli con le budelle, Adrià, fammi quelli che me lo guardo mentre sto mangiando. Ma come fanno andati via, come scende la 10? Scannati vivi o tipo Sham 3 o 2-1. Buonasera Natalino. Ecco, com'è? Credo di non riuscire, non mi riesceranno. C'è un altro break, avanti, c'è un Natalino, avanti altro break. Ciao a tutti, sono Gianca a te, la compagnia di Teresa, Adriano, Natalino e Antonio Bombolo. Bombolo. Vai Antonio. Tanto, stai facendo quell'apparecchio che ho già fatto. Mi sembra che sta facendo meglio. Ah ecco, perlomeno a me avete meglio. E che si fa? Mi sto rientrando adesso, ci ho mangiato una pizza che stavo sintonizzando e piazzando il decoder, prima mia sorella e poi mia suocera. C'è anche Bravo, mi sembra, ci sono andato a mangiare, guarda, ci sei anche tu. Io già ci sono, già, sono qua. E capo, non mi sono dimenticato di vedere tu. Vabbè, dai, avanti, tele. Ehi, ciao Bravo, comunque, ciao Gianni e ciao Natalino. Va bene, da Anna Benemeda, riprendi Adrià. Sì, ciao anche Adrià. Ma stavo dicendo, io sto passando più tardi commedie comici a Marrella, perché lì avevo qualche cosa, qualche budella o qualche cosa, perché non è il caso. Passando roba comica. Posso passare qualche roba di quelle trucide, guarda, ho visto ieri notte, aspetta, queste ragazze le fanno una caverna, sono andate a, erano delle speleologhe, sono buttate dentro paura. Insomma, budella non ce n'era, però sangue un bel, e anche crani spaccati con le piccotte della speleologa. E anche, ma dove te l'hai guardato? Nel coso? Nel coso, picci me lo guardo. Che tu quanto ti abbia dato? A tardi era. Perché i film li danno sempre tardi, quelli più belli, ma non si deve proprio addormentare. Li danno? No, io ce l'ho nella disc, scarico da internet, che e devo stare appreso ai caccaglioli della televisione, via. Natalino. Ehi, ciao zia. Ma Claudio e coso? E Roberto, chiuso hanno te? No, Claudio è entrato qua, perché poi mi sono spostata, è entrato qua a salutarmi e ha chiuso Claudio, però poi non lo so, Roberto, non lo so, Claudio ha chiuso, perché non stava bene, tutto qua. Vabbè, tanto io me ne faccio quelli, perché ha già chiusato i nomi, se non mi ricordo. E poi sono andato a Di Giordi. Che hai tolto il fuoco dal microfono. Ah. E che cazzo, SQL con il microfono che fa fuoco, SQL ascolta, non gli c'è il fuoco dal microfono. E quello l'avevo fatto per ridere. Io vi saluto perché in camera da letto non c'ho niente, quindi non posso fare niente. Miau miau, wow. Dipende, ma ti vedi bianco, però vuoi cambiare la qualità. Ciao, ciao Natalie, sentiamo. Vai Gianni. Ciao Natalie, buonanotte. Quanto vi posso usare in camera da letto, quello della macchina? Ma c'ho in macchina, non mi vuoi andare a pigliare. Ma come vuoi? No, no. Prego, Teresa. Bucca. Ia, ia. Ia, Gianni, Gianni. Ma è stato brutto il giro, non lo vedi. Sono qua in tasato. Ma se tu voglio partire, vado, mi compro sempre serve. Non c'è freddo. Catturare il lavandino. Io sono 15 giorni che ho questa tosse. Che mi si asciuga la gola, me ne fa uscire giù. E poi mi fa male il petto quando tossisco. Ti accorgo, già, due, ha fumato tre cose assieme a te. E poi una domenica, ma per modo di dire, già ormai è talmente abituato, colazione, sigaretta. Fumato una, poi vabbè, non l'ho fumata, poi ho acceso un'altra, quando è arrivato Gianni, ha voluto già prendersi l'apparecchio. Ma c'era due tiri. Mi viene questa tosse. Non ci metto un caso perché non è possibile fumare. Già, guarda, se ce la faccio non li tocco più perché non. Ma non credo di. Non credo, Non credo perché è un po' critica. Adesso andiamo a repartire, diceva te. E faccio, ci troviamo già. L'altra volta sono stato una settimana senza. Senza fumare. E poi, boh, non so, mi ha preso questa cosa di fumare, dovevo fumare per forza, sembrava che era obbligato, ci riprovo già, c'ho un pacchetto ancora, quello che mi ha comprato assieme lì, mancavo tre, quattro, boh. No, io, di più. E vabbè, ci provo già, qua io spero, cioè ce la faccio, questo mi metto da parte, veramente. A fine anno, servi a mozzo, ma è un po' dura, Ma Daniele cosa c'ha, Feppe? Daniele dice che ha messo male. Daniele c'ha la... Cazzo, non mi ricordo. Daniele, cosa c'ha Daniele? La broncopolite. Eia. E quello perché è andato a lavorare con la Feppe, e gli ha peggiorato la situazione. Già, tu non hai idea quante volte... Guarda, non sto scherzando, quante volte sono uscito con la febbre in moto, quattro uomini non mi crederai, però non sapevo neanche a cosa andavo incontro, la verità è, ma sono altri molti di vicini, però non mi ha mai fatto niente. Pericoloso, specialmente per chi lavora, si muove, suda, fa, è allucinante. Questo è il sistema immunitario, e chi è moscio è abituato, chi invece al calduccio per aprire un po' d'aria va sottoterra. Ciao Andrea, e non è che sono abituato a buvare di Gesù, si è abituato a una maniera da quel gribato, non vuol dire nulla a questo. Ciao Andrea, siamo salutati poco fa. Vabbè, comunque così, non è cosa di abitudine, questa, ma che se uno ha la febbre deve stare al calduccio, prende le medicine che deve prendere e far fare il soffio solo di influenza. Non uscire fuori al freddo, se no ti aggabba di più. Ah, io non sapevo dove sbattere la testa, perché uscire io è possibile. E magari l'avrei anche fatto, mi avrei preso il motorino e sarei andato da Simon a prendere qualcosa, perché gli dirà micidiale, no, sono male. Ragazzi, un avanzio, ma le gambe, se ti facevo male le gambe ieri, ma io così mai trovato, mai. Diciamo che io ti sto un po' meglio, ma non assai. Non ha preso nulla? Ma sì, pastiglia, tra l'altro quelle risalgo qua, prendiamo solo quelle, boh. E la verità, sono andato in frigo per vedere se c'erano le supposte, non ci sono più. Non c'erano, ma erano scaduti, ce le ha buttate, le devo comprare. Ma che pina vita ci vuole? È l'unica che ti può far bene. Poi c'è questa tosse, non ti attacco più viva. Non è sempre, ogni tanto. Ma ti guardi si fumo, faccio un tiro, oh, yeah. Tutto si bussureggia. E guarda, questo il mal di gola di ieri era... Mamma mia, cosa vera, mai mal di gola così. Sì, è venuto, ma... però ti dico una cosa, il miele che non mi piace, ma ha fatto la mano di Dio. Il miele fa bene. Allora devi prendere con le baccanti, per latte bollente, mi caldo a caldo, col miele dentro, ma ti fa bene. Occhio, non stia male, ti deve bruciare l'uvola. No, già, latte bianco. Anche caffè latte, vabbè. Ah, caffè latte col miele dentro? Sì, ma se non lo sapevo, hai visto? Non l'ho fatto perché pensavo che non andasse bene. Io lo sapevo. Se è bianco, ma neanche se mi paghi. Come lo metto in bocca, lo sputo subito. Perché non ce la faccio a bello bianco, mamma mia. Ma sai chi lo prende così? Mio padre fa anche fatica a bello perché brucia, perché è caldo, ma... ti fa spendere tutto il caccano se ne hai, eccetera, eccetera. No, ti fa un bel bene. Ti fa uscire le gocce. Ma cattarlo ieri? È un po' fosta mattina, ma poca roba. Se no cattarlo, nulla. E ieri il cazzo che mi gocciolava il naso, sembrava un rubietto, un tubo rotto. Cazzo, Eva. Non avevo questi gocci qua. Per carità, ma cosa brutta già. È brutta. E da lì già sta un bel male. Faccio le punture. E se non vanno bene quelle punture, dice che è obbligato a ricoverarsi. Vabbè. Sono cose che succedono, ma... Anche la mica mia, lì ci sono ancora uscita con la febbre. E mi sono guidato da qualche momento e la ricoverta sarà tua. No, e guarda, sto qua, se sto bene, tu, vabbè, febbre non ne ho, 36,5 non è febbre, no, già. Insomma, c'ho il raffreddore e tosse, dai. La febbre comincia a 37,1. Infatti febbre non ne ho, ma ieri, gli anni, se non ti va. Ma stavo a telefonare a casa e ti saranno tu a pirato le medicine che avevi portate, che problema c'è? Già, ci ho pensato. Viva. Ho passato una nottata ieri notte, bella, da discoteca. Ma stavo a telefonare, ma c'erano problemi. Non ho bisogno, non è che sia quello il problema. Adriano risponde che c'è per Paolo. Piglia! Allora sai pure alla fine dei conti cosa ci vuole per far passare il fuoco? Non te lo dico, anzi non ve lo dico, ve lo lascio la vostra immaginazione. Ci vuole molta pazienza e che faccia il suo corso tutto lì. No, non te lo dico, va. E Parrusilio mi è spacca, mi ha dato. Mi hanno vedi che Luca mi ha capito. Anche io ti ho capito, ma sto facendo l'indiano. Credi che io sia tonto. No. Vabbè, la sua sustina sì, fa altro. No, lui sta tirando fuori tu. Vabbè, così, la sul Costa, anche Pirina 1000, e fa benissimo, ora metto sì quando ne ho bisogno. Oh, no, per pa... Dimmi, oppure chi sei in laido? Passa a voi, a tutti e due. Metti ci sono quelli di oro che mi piacciono meno, quelli che sono un po' di fantascienza, che ci sono i mostri, sì, i risparmi si dividono in mille pezzi, tutte queste cose qua, non è che mi piacciono più di tanto, ma c'è anche il tip per dire. Chiami per l'agricoltura di striscio. Qualche emozione di scarica di Lenghisa, due, tre, tipo Schaff, detto in italiano. Tu da dove scarichi? Da il muro che fa l'ora. Ma col classico muro, col vecchio antico muro. Purtroppo sono spesi molti server, azione frega però già peccato che sta attrezzando e quindi è poco l'ultima, l'ultima sessione di download che ho fatto giorni 125. Dimmi una cosa Adriano, quanto ci metti a scaricarlo da dopo scarichetti più o meno? Beh, ho capito una mazza perché c'era gente a voce sotto, come? Gente a voce? Ah, TV mia. Ho detto, quanto ci metti a scaricarlo da dopo lo scarichi tu più o meno? Più scarichi meno ci metti. Dipende da che tipo di film è e da quante fonti sono disponibili. Vabbè, uno così, dai, tipo una di Mussolini, un film da un'ora e mezza, dai, circa, quando ci vedi a scaricarlo, un paio d'ore. Io per dire lo lascio la notte, lo faccio di sera tardi, lo lascio la notte, quindi domani mattina appena giù proprio. Esattamente. Però dipende da che film è. Perché io ho scaricato un film addirittura degli anni 50, dell'orrore degli anni 50, dell'orrore, fantascienza più che altro. Quelli mi fantascienza erano nel 50, se li guardi ti viene da ridere, però sono dei caldi e non li troverà nessuna parte, neanche mi devo credere. Quello è sì. Stai dopo questo bip. Ecco qua. Come più o meno, non so, un'ora, due ore. Perché ho sentito qualcuno che, non so, dove scarica, dice ci vuole, dipende anche forse un giorno. Un giorno a scaricare un film da internet. Io non so che larghezza di banda abbia lui con la roba di sera. Io ho 150 blocco di 120. Dopo 3 giorni ce l'ho con un film. Non so. Giusto, sto facendo appello, adesso vediamo, secondo me va, vediamo un po' la moneta, me lo metto pure al computer, così mi diverto un po' i chili. No, ragazzi, non si paga nulla, solo che diciamo che non si potrebbe scaricare. E che... Dipende. Ci sono anche delle chat per dire dove tu fai parte di queste chat dove ci sono quelli che scaricano, no? Ti metti in lista e poi scarica. No, che te lo fa fare? Io esco anche prima di uscire al cinema. dipende, dice tutto, dipende. Ci sono dei film, vabbè, sono un po' scarsi, la verità, però non è sempre così. Ci sono dei film, vuol dire che leggi un titolo e qui ci sono, vuol dire leggi un titolo conosciuto, ma scaricando c'è il film qua, non è. E farà anche questi scherzi, ma è capitato anche a te. Sì, ma scusa, ci vuole molto a fare un attimo, guarderei i commenti degli altri. E vabbè, quello sì, una volta che puoi fare, ma è il primo periodo che non sapevi queste cose. Guarderò anche prima, per i megabyte dove siete l'originale o no. Chiaro, non capita per i film, capita per software, per caccato. A me è capitato anche lui un paio di volte. Comunque, niente male. E vabbè, dipende da che cavoli di software, cioè di firewall. Se c'è un firewall come si deve, oh beh ragazzi, dai, sto chiudendo che sono entrata, stavo ascoltando un pochino, dai, vi saluto a tutti e sto spegnendo, tutto alle prossimine, ciao ragazzi a tutti quanti, ciao ciao, ciao, faccio domani, già faccio un salto che vi restituite a quello che me lo sto per guardare e vi porto l'altro, dai, ciao ciao. Ciao signor Teresa. Ciao a tutti, ciao Maria Luisa, telefonami. Abba. Non puoi adesso. Alla Vodafone. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Ciao Teresa, ciao. Ciao Teresa. Anche a me il telefono di Maria Luisa. Ah sì, un numero qualsiasi. Ciao magari. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, compagno Adriano, Gianni, e vabbè c'è la Teresa che è un po' di più forti, no? No, noi ci siamo comunque, dai, vediamo un po' se Adriano ti ascolta. Adriano, l'hai copiato a Tonellino? Prova a Tonellino. Adriano, Tonellino, che ti fa chiamare, buonasera, dai. Buonasera, segnale 1, radio 2. Magari non ascolta lui, Luca. Vabbè, che coordinate sì? Oh bravo. Luca secondo. Ma Luca, cosa sei venuto a capotella? Mi so che Adriano, se ne so cosa vai tu, vuol dire che arrivi, conferma che è l'ottava. Ma sono una terra di macchina, non so dove l'abbiamo messa adesso, dove la metteva sulla cappotta. Ma qua arriva a 8 Tonellino, 8 radio 4, dai. Io sto facendo il nome. Mi ascoltano qua in città, però. Tu hai un primo, io non busso, ma fa farlo, devo aprire un anch'io. Mi tocca al prima, io non busso, ma. E comunque già, va bene, dai, non c'è problema. Vediamo un po' Gianni, no? Già ascolti a Tonellino, sì. Avuta, ciao Tonellino, hai sentito? Eccomi, bevo un coso, non so se di via. Io ascolto l'Avra di qui a Tonellino. L'Avra 95, va? Eia. Andiamo, l'antenna, cambiamo te la vengo. No, ce n'è più antenna, non c'è. Ce l'ha 5 ottavi, 25, 22 anni fa, se ne ha lamentato, tagliare un cilometro. No, non, il cilometro mi interessa. Scusa, gli ha accusato di accusare. Però ecco, tu li riconosci, ti sono tipi dalle margherite, te certamente che sì, dice, vedi che ti faccio vedere una cosa. Non erano legati i crisantemi, a me una collega, e mi ha portato dei fiori questa signora, dei crisantemi. Belli, belli. Adesso, io non ero lui, come se non mi fate una bella cosetta, ma al cimitero qualche tomba di poveri, di quelli che non ne hanno, li rimettete, fate un'opera buona. Sì, infatti, che mi hanno da riara. Mi risate per i chi mani, avanti, prego. E vai Luca, salutoni, che ci sono dei campi di Pasqua. Ciao Ricca. Ciao Brade. Passate per il cuore. Insomma. Adrino, ti dimentico ogni volta ci sono io a ruota. Non me ne sono dimenticato, figlio. Non me ne sono dimenticato, ti avrei lanciato adesso. Anche se mi sono dimenticato di dirlo poco fa, in effetti, però già me ne ricordo che ci sia. Adesso invece non lo fai per c'è. Ma è stato da venerdì, sabato, domenica, sono un po' così e oggi sono andato a lavorare e sono ritornato, non ho lavorato, non ce lo stavo bene. Sono un trascinti, non trascinti. Ma adesso domani si va a rientrare per forza. Attenzione lettore che poi peggiorano le cose, visto Daniele cosa gli è successo? Ma no, io già non sono così, già. A me è sempre un peggio, già ho già migliorato, dai. Domani sono pronto per ripartire. Tu puoi dire una bella pastiglia, stavolta tu vai andare a lei. Quanto sul posto di lei. Certo, non ci prendere questo. Alla gara. Abbiamo un secondo Falcone. Ciao, buonanotte a tutti, eh. Ciao, Pio Panana. Yes, buonanotte. Buonanotte. E Antonio, Antonio. Vabbè, qualcuno può scappare. Beh, solitamente prima si aveva un vizio. Si scriveva sempre un foglio di carta. Tutti quelli che c'erano in volta, almeno io facevo così. E poi piano piano, quando se ne andavano, li depennavo. Li facevo girare a uno a uno e così non sbagliate, ma adesso diciamo di notte è un po' paranoico fare questi lavori. Da me funzionava così, perché io ho una salta nel sedia e quindi diciamo che lavoravo in una maniera giusta, ma lo facevo nei tanti. Piano piano qui, quando andavano via li ripannavo, così a me non sbagliavo, non dimenticavo nessuno, rapito. Vabbè, tu sei stai in ruota, siamo qui, dai, fai girare, per chi vuoi, vai, per il tuo vino, per il vino, per chi vuoi. Ritta, riprendi. Io Antonio non l'ascolto, salutano ma non l'ascolto. Saluta Rita, tu quello dice che non ti ascolta. Niente, niente. Tu ti ha ritato? Ti sento. Sì, ti sento, ti sento. Va bene. C'è l'antenna sul tetto, un'altra cosa. E beh, non noti niente con questo apparato. Oh. Con questo. E vai bene. Questo è l'Alan, 48. Ma di modulazione non è che sia aumentato, sinceramente. No, non ho cambiato nulla, ho aumentato un po' il giudice qua. E vabbè, vicinanza non è che siano tanti di tanto, comunque già stai andando bene. Per questo lì. Quale? Quello che ho usato io. Che cos'è? CB2001. Cambiato, non è più quello di prima. Ma quello non è stato fatto per il momento. Questo ha 200 canali. Ah, quello è bello, sì. Poi c'ha anche il canale Sonco, FMM, due parti laterali, USB e LCD. Anche se non sono modulato. Dove si è permesso? Tre parti LCD e USB. Lo sai che adesso è tutto a posto con l'antenna di Stefano. Fatto tutto. Eia, prende bene, bene, bene. Dai, dai, ciao, vuoi, va bene. Eia, eia. Ma lo so, eia, eia, eia, ma sono un po'. Eia, c'è tanto. Quindi, ma non l'ho presa quella tana che vi ho detto io. No, già, niente, abbiamo cambiato il cavo con la nostra e va benissimo. No, e mentre così dovrà piattare. No, l'abbiamo messa adesso nella mia macchina, cioè, nella macchina, cioè. Adesso domani la provo nell'esame. Comunque nella macchina andava bene. E niente. Abbiamo cambiato il cavo ed esce bene. Tu pensa che usciva più di quella di Luigi? Sì, infatti. E ma c'è anche quella là, quella che ti ho detto io, la cosa costa 27 euro mi pare, ma è una bomba. E tu pensa che lo stesso segnale me lo danno se. Senza lineare e un'altra persona con lineare io arrivo con lo stesso segnale. No, ma comunque se la prendi, perché o la prende per me per la macchina, oppure se la prende lui per il cambio, perché cioè, a me mi serve per la macchina, la volevo mettere in macchina una piccola però. E quello lì è grosso però, io non se la fanno mia moglie, ma va benissimo, perché alla moda se tocca si abbassa. Ragione. E poi ce ne sono piccoline che rendono lo stesso stili fini fini che non sembrano manco di coso. La macchina sembra una pena di rale. Hai visto l'altro giorno quella che stava provando? Sì. Sì. E io. E poi si è provato anche con l'altra, che era più piccolina. Volevo mettere una più piccola lì. Ma sempre le state male bisogna controllare, le state controllate? No, appunto, bisogna controllare, stazionare. Se c'è state male è un casino. Ma anche quella di mia moglie l'ho messa io, così com'era, non l'avevo comprato manco le stazionali. Adesso che le ho fatto le stazionali c'è una bomba, una bomba, l'ho accorciata appena appena appena. Non l'ho controllata, l'ho accorciata da Luigi, da Luca, da un po', qualche giorno. peso, 15, non so quanto sta dando. Le coordinate come storie qua, ma sono lo stesso, perché è una cosa reciproca. Se ti ascolto passa io, passa il tempo. Sì, il segnale 7, radio 3. Il segnale 7, radio 3? Sì, no, la radio 5, la sta. E io ricordo che arrivo. Sei sicuro che ti senti? Forse perché la zona è più libera la mia. Vabbè, non sa, mi c'è tu mi devi battere, non è sempre a freno. C'è tu mi devi battere, sono c'è. Tu mi devi battere. Se ci può, va. Se si trattiene, che è troppo freddo. Lo vedrei così. Con la mezza al canario, alzando appena appena, per cui sono come nascosto. Non mi ricordo, dovrei segnarlo anch'io, dipende di nuovo l'abitudine, ma di chi sei qui, vita, che si ha. E prima si segnava, e infatti c'era il cassetto che usciva, tipo con il computer, dove c'è la tastiera, e li riscrivevo. Poi ho eliminato tutto, ho fatto un cassone grave, avevo tutto la grado. C'avevo lì, c'avevo il gas, ma è andato male, quindi abbiamo un bus. Visita, a Castelsardo, da Sorso, un po' da tutte le parti, sì, noi. Siamo là, direi, ma troppo. Dai, tutto sommato, c'è la terra. Sì, se si tratta di parlare così tranquillamente, fa sempre piacere, però troppo. E brutto quando ci sono bisticci, gente che fa brutti, gente che fa dice la parola, allora mi rompo le scatole, perché ti puoi passare qualche minuto di tranquillità e invece ti fa nervosia. Comunque, diciamo che adesso mi sembra che stia ampliando, mi auguro che sia stata gente educata e che faccia le cose come deve farle. Guarda, un figlio ci vuole bene. Adriano, che mi ascolti, dove stai modulando tu? Sassari, Sassari Centro, Sassari Vecchio. Ma no, non si può proprio dire Sassari Vecchio comunque, più o meno, Ponte a Rosello. Io come dovete arrivo con questo appena arrivato, segnale 1, radio è 4, e qua io non ci ascoltiamo bene tutti, dimmi Maria Luisa. Che ti sei tutto il segnale, tutto, brutto. Cosa c'ho? Che ti sento male, ma sei raffreddato. No, grazie a Dio non sono raffreddato, usando un microfono normale sono in incognito, perché devi sempre sentirmi a bombardamento. Sicuramente mi senti in asino, quello è poco male. Allora c'è una schifosa. Che cacchio. Aia. delle cose che non devo fare e poi te ne vai. No, ma adesso sembra è la stessa cosa, nella formica nelle fante cambia, la stessa cosa, nella radio, sembra un ruggito di un leone. Aspetta un attimino che sta scurando, torno subito, seguito al 30, mi dà subito, altrimenti fate quello che volete, un attimo. Ecco, sentite qua questa piccola stazione, cambio. No, questo è un altro apparato. A te già quanto arriva questo? Bene, mi sembra corona. È simile, è un gemello. Compro niente io già. No, già lo sai dove vado a rifornirmi io. Dove sarà il mio? No, negativo, il tuo è su un furgone. Raga, e meglio non lo faccio come voglio io, però. Raga, attento Adriano, ci ascolti questa piccola stazione qua, cambio. Viva, come raga, quindi vi confermate che esce bene questo apparato? Cambio. Vuoi la gola del cambio? E sono uguali, sono fratelli. Non c'è l'effetto di Cottero però, eh? No, negativo, neanche il doppio modulatore. Questo sta mandando 25 watt modulati, 20 a portate premute e 25 spinge, gap. Vabbè. Posso. Invece è la migliore offerente, lo vendo 4 euro e 50 centesimi, cambio. 5 euro. Mica a casa. Questo è un Aran 68. Cosa va bene lo stesso? Ecco, dite che c'hai, cosa sta a fare base? Ha un baracchino, già. È un baracchino da mettere nel furgone anche quello. Solo che c'ha 200 canali, in più c'ha le bande USB e LSB, e poi dopo l'uno, se giri tutta la manopola in senso orario, scende da meno 40 fino a meno 1. Capito. No, ma sono sulla stazione base. No, adesso me ne deve arrivare un altro, già. Stazione base che in AM e in FM mandano 20 watt, e in banda 40 watt. Sicuramente è sempre americano. Sarà tipo il DAC. Sicuramente. Me lo deve mettere da parte, lo deve cercare e poi vale, me lo porto via. Cappa. E quello l'ho piatto qua a casa. Va bene, dove? Si è giocato lo stipendio. Negativo già, il mio stipendio non si tocca. L'amico Adriano dov'è? Dov'è Adriano? Gliela facciamo sentire questa piccola stazione. Che ha provato? Adriano, se lo fa il telefono. Beh raga, io non sono faccio più a resistere. Chiudo tutto, vi lascio, vi auguro una buona notte, me ne sto andando. Rita, riprendi. Guardatemi Adriano, quando rientra non ce la faccio, sono stanco. Ciao, Gianni. Ciao, Ciao, Gian, Adriano e Antonio che c'è ancora. Ciao, buonanotte. Ciao, piccolino. Chiudo anch'io, Gara gara. Ciao Gianni, ciao Rita. Fate i sogni d'oro, E pensate. Ciao, ciao. Ciao, anch'io, già. Aspetta, non mi sentono gli altri. Ciao, mi dispiace, avessimo trovato una migliore. Grazie, mi raccomando, non mi sento male. Autore saluta tutti cordialmente. Cosa? Autore saluta tutti cordialmente. Ciao, ciao. Ci sei. Maria Luisa. di Fruscio. Chi è? Attenzione Marie, mi avete fatto mettere il microfono prepotente e siete spariti. Dacci forse. Come? Più bella la voce così. Più bella di che cosa? Più bella questa modulazione. Rispetto a quale modulazione? Prima di chi? Staccatemi il microfono forte. Il microfono forte? Prima c'è il microfono più debole, giusto? C'è quella normale, adesso ha attaccato il microfono forte, si sente meglio. Ma sai, ti stai confondendo qualcun altro? Sì. Ora ti sei bruciato della macchina di gloria. A chi stai chiamando, eh? Tuo fidanzatino. Luigi, la massa te ne scendo. Dimmi se sto uscendo.